Sta per cominciare Sessioni Notturne. Sono. Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario schiaccia play e segui la diretta. Culla da stanco una spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara due minchiate. Sulla giusta. Vai, vai. Ah no, sbagliato. Aprite la cazzo di porta. Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia sulla culla. Sulla culla e sulla. Mo apri. Ma la culla no. Eccoci, siamo finalmente arrivati su Radio Wombat, Mars e Vintro con Sessioni Notturne, programma hip hop tanto atteso di questo 2019. Salve a tutti. Allora, abbiamo pensato di incentrare questa prima puntata di Sessioni Notturne sui disconi hip hop usciti nell'anno scorso, ovvero nel 2018. Ci soffermiamo sull'hip hop italiano per questa prima 2018, puntata, sì. Per la prima puntata, così da recuperare tutto il tempo perso, visto che tutto siamo il già tempo a perso. Marzo. Eh sì. Ok. Eh sì. E non a caso, non a caso siamo a marzo e nel marzo proprio dell'anno scorso che il primo momento che andiamo a calcolare dell'anno 2018, marzo, abbiamo il primo disco che volevamo farvi sentire oggi. Parliamo di un artista di tutto rispetto, ecco, un signore artista. Molti di voi lo conosceranno. Parliamo di Mezzosangue. Parliamo di Mezzosangue. È uscito con Tree, Roots e Crown nel 2018, che è stato il suo secondo disco ufficiale solista. Se non contiamo il mixtape Musica Cicatrene, che è quello uscito nel 2012, con la quale si è fatto conoscere dopo Capitan Futuro Contest di ESA, dove ricorderete tutti un passamontagna su YouTube. E quindi passiamo il primo pezzo scelto da noi appositamente per voi da questo magico album di Mezzosangue, System Error. Basta, andiamo. È la sintesi delle volgarità, il vomito tardato, l'essenziale di un rapper scurrile, negativo, oscurantista. Il suo disco è l'apoteosi delle sue nefandezze, la sua macchia è da sintomo della sua vergogna. Egli non è un uomo, è un errore del sistema. Mezza il nome, Man in Black nel rap. Paralieni col vocoder pronti all'invasione. Bang, rapper bang, clone di un clone da sera. Hey, passa il neuralizer che mi scordo questa merda. Vengo dritto dal futuro, a cazzo duro, a dirti quanto è scuro. T'assicuro, mi rientro un buco con un tuffo al culo. Pronto ad impedirlo, parlo come un figlio. I migliori consigli, il migliore consiglio. Uccidi, distrozzo coniglio. Pyongyang, state of mind, venga a forti fine. Wrong time, sogno l'Armageddon, l'uomo per concime. Getto questi USA, il loro USA getta dalla testa. Tutte quelle stelle strafate di striscia aperte, yeah. Dicono bene, va bene, ma bene non va se le scene di questa città sono piene d'alieni, di scemi, strapieni di mediocrità, di paniere, di numeri, fieri di stupidi, fieri che superi solo quei numeri. Numeri veri, li superi solo se accedi agli schemi sinceri di stupidi, ah! System error, via da Matrix, opzioni binarie, dai. Spara flash, ho la mia testa, ti voglio scordare, sai. Ho una festa questa sera, una cosa da fare. Signor Mezzo, guarda qui. Sto male! System error, io che aspetto il peggio pronto al meglio. Sono meglio con il cuore, trovo il peggio con l'uccello. System error, un segno da scappare dal cervello. Forse scopo la sfortuna, viene sempre sul più bello. System error. System error. System Error, quale 808 sei un pacco. Ti vede l'ego rapper not found. 404, vengo per giustizia a mettere a posto le cose. Mezzo morso feroce, tu sei morto precoce. Vedo rari, temi, tu vedi teme, rari, tu vedi tali geni, io vedo genitali. Sono sposati con la musica e amanti col denaro. Sti prosciutti resistono un par d'anni e divorziano tutti. System error, perché siamo fottuti con i sogni incompiuti. Siamo numeri in dubbi, siamo cupi di Rubik senza più un cazzo di piano. Il culo e bocca ben cuciti dentro un centipede umano. Sorridi, fatti un selfie, anzi aspetta. Posa il cellulare che ho una nuova macchinetta. Devi puntare e premere per bene questo tasto, fallo in fretta. Perfetta. System error, io che aspetto il peggio pronto al meglio. Sono meglio con il cuore, trovo il peggio con l'uccello. System error, a scappare dal cervello. Forse scopo la sfortuna, viene sempre sul più bello. Sistemerò. Io che aspetto il peggio pronto al meglio. Sono meglio con il cuore, trovo il peggio con l'uccello. Sistemerò. Insegnami a scappare dal cervello. Forse scopo la sfortuna, viene sempre sul più bello. Sistemerò. Sistemerò. Sistemerò. Ah, cattivissimo il nostro mezzo sangue, cattivissimo, e la cattiveria prosegue in un certo senso. E entriamo in un aprile, entriamo in piena primavera che stiamo aspettando quest'anno, che ancora questo vento non ci fa godere del sole che ci illumina tutti i giorni. Detto questo, l'aprile dell'anno scorso però ci regala un artista solista che non usciva solista dal 2012, nasce con i Broken Speakers, avrete capito di chi sto parlando, nel 2007, con l'EP proprio dello stesso rapper, Lucci. Esce nel 2018, nell'aprile 2018, con un disco di tutto rispetto, Shibumi, e abbiamo scelto di farvi sentire la traccia Boom Bap con Ford 78. 78 che è il produttore di tutto il disco. Sì. Nulla, partiamo già con la traccia. Sì, spariamo un po' di cattiveria. Va bene. Valentino su. Siete street art, voi la moda del momento, noi immortali. Trap nero argento, porto sempre in alto, sopra ad ogni palco il crew che rappresento. Blocco del granito, no bandiera, mica vado a vento. Va fa il colto, t'ascolto, parla pure. Ma leggi qualche libro, non soltanto raga pure. Oppure, va fa il coatto, va bene, fallo pure. Tanto prima di parlare sul palco ho fatto nocche dure. Giù per strada, mica a casa mia. Negli anni in cui dicevi ascolto rap, sembrava avessi qualche strana malattia. Sembrava quasi un'utopia, ma adesso che sta merda è sui diari dei bambini. Penso mamma mia. Quanti strozzi sopra il carrozzone, fanno mille dischi e te ricordi una canzone. Fanno rap senza ascoltare rap, manco gli piace il rap. E grazie al cazzo che c'è confusione. Dai e forza, banname il boom bap. L'unica certezza è questa cazzo di giungla. Sto rap è come mafia, vivi non se ne esce. È dal 2010 che te strillo in faccia, non te riesce. Dai e forza, banname il boom bap. L'unica certezza è questa cazzo di giungla. Sto rap è come mafia, vivi non se ne esce. È dal 2010 che te strillo in faccia, non te riesce. Faccio rap a scemo, mica tendenza. Se chiami quella merda poesia, la mia è scienza. Fisica meccanica mischiata con l'anatomia. In pratica schiaffoni sulle orecchie di violenza. Caposaldo di questa città, sul palco macchina da guerra. Casse rotte, corna in aria, lascio buchi a terra. Ho scelto la mia cosa, ho fatto sempre solo quella. Per fortuna sotto al palco non c'ho gente che smascella. Bella, sta roba che fai, come si chiama? È un'altra delle mode che ti scordi tra una settimana. La barba della Magliana, mica quella roba strana. Qua ce vo' pazienza e questo sono il Dalai Lama. Continuo a parlare dei cazzi miei, continuo a dirti che tu non fa un cazzo. Io invece marzale sei. Ho sempre disprezzato profeti e falsi messia. Se sali sopra il palco bussa ancora casa mia. Dai e forza, banname il boom bap. L'unica certezza è questa cazzo di giungla. Sto rap è come mafia, vivi non se ne esce. È dal 2010 che te strillo in faccia, non te riesce. Dai e forza, Panama e Pumba, per l'unica certezza in questa cazzo di giungla. Rap è come mafia, vivi non se ne esce. È dal 2010 che te strillo in faccia, non te riesce. Una cattiveria un pochino più malinconica, forse. Una cattiveria un po' più dolce. Un po' più dolce, sì, esatto. Allora, adesso abbiamo un altro signor artista. Signor pop, sì, esatto. Ci piace la cattiveria nel 2018. Parliamo adesso di un altro disco uscito ad aprile. Parliamo di Entropia 3 di E-Green, conosciuto anche come Turbo Gigi. Qua dove andiamo? Ok. Parliamo di E-Green con Entropia 3 ha fatto il suo ennesimo disco solista, visto che ne ha fatti uscire due negli ultimi sei mesi dopo Entropia 3 in realtà. E-Green che dal 2002 con Jam, con Serate, con Palchi Calcati e con Spit volume 1, volume 2, Il Cuore e la Fame con l'Unlimited Struggle, il primo Entropia. E cosa c'è da dire più sui Green? Cioè, non c'è nient'altro da dire, soltanto che rappresenta come probabilmente pochi oggi fanno. Niente più. Quindi oggi vi facciamo sentire Verbal Kint, prodotto da Kike per Entropia 3 e wow, Radio Robot. Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? It's a nice one, kid. Had to close out someday. Nobody wins them all. I figured you came down here to make sure I didn't fuck this up. Maybe I did. Se non trovi questa merda interessante, tu del rap non hai capito un cazzo. Gioco la mia mano all'inferno su un beat di ghiaccio. Non credo nel colpaccio, c'ho i crampi sul polpaccio, ma corro senza pensare, chissà se ce la faccio. Old school come Balbo, come Manuel Fangio. Bulletproof nella luce delle sei rilancio. Pompo Ric Flair, non c'entra un cazzo col tuo Royal Rumble. Nato a giugno per sti rapper, non posso che essere un cancro. Mike metastasi, lessicale paralisi, per sti asini crepa musicalmente calzo i calici. Amami mentre sorseggi il tuo lagavulin e mandi a fare in culo tutti i sei motivi validi. Se uccidi con onore tranquillo non serve un alibi. Io li lascio esanimi, sempre avverdetti unanimi. Non vedo colleghi ma corpi sacrificabili. E se poi colleghi in ottimo venti più che tastati. Questo è solo un altro tango sotto al plenilunio. Non distingo lupi e pecore quando fa buio. Tu fissa la piramide sull'obelisco e lasciami fare in silenzio, io non esisto. Solo un altro tango sotto al plenilunio. Non distingo lupi e pecore quando fa buio. Tu fissa la piramide sull'obelisco e lasciami fare in silenzio, io non esisto. I think you came down here to make sure I didn't fuck this up. Maybe I did. Arrivo ancora fottutamente selvaggio. Per questo che non vi piaccio, per questo me ne compiaccio. Per questo sto nel mio viaggio, non chiedo mezzo passaggio. Piuttosto faccio arrembaggio, piuttosto mozzami un braccio. E vediamo che intorno marcio. Vorresti Lady Di Marzo in diretta sul sottoscritto. Ma il vento ha cambiato il fato e l'epilogo del delitto. Cammino verso l'oracolo, dritto anche se trafitto. Poi siedo a questo cenacolo, vodka con pollo fritto. Non faccio quel che si aspettano, adoro quel che rinnegano. Vivo per ciò in cui credo, marchiato dentro il mio scheletro. In sintesi ho la fortuna di vivere sta scrittura nella maniera più pura. Cielo addosso è fatta su misura. La conclusione è l'univoca soluzione, perché il fatto non sussiste non mai che la Cassazione. Le altre 500 strofe in prescrizione l'altro ieri. Mi dispiace che te ne sei accorto tardi, ancora palmi interi. Solo un altro tango sotto al plenilunio. Non distingo lupi e pecore quando fa buio. Tu fissa la piramide sull'obelisco e lasciami fare in silenzio, io non esisto. Si invertono gli attenti, danno fuoco ai templi. Il tempo scritto, la sti monumenti. Se una di lasceri al vento la porta via. La grande Peppa è farti credere che è fantasia. Si perdono gli attenti, danno fuoco ai templi. Il tempo scretto e lasti monumenti. Se una diceria al vento la porta via. La grande Peppa. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. And like that, he's gone. Questa primavera fuoco e fiamme, insomma. E la primavera continua perché maggio è pur sempre primavera. E con questo maggio abbiamo un altro artista che ci regala un altro disco anche con delle note di nuovo, delle note di moderno, un pochino più moderno. Abbiamo... Un pochino più malinconico del solito. sì, rimaniamo comunque sulla malinconia, non è che sprizziamo gioia. però abbiamo un signor disco, abbiamo Memory di Gianni Marsiglia, prodotto da Big Joe. Gianni Marsiglia, artista siciliano, mamma capoverdiana, e lui ci tiene molto a ribadire le sue origini siciliane, soprattutto anche in questo disco, Memory. Un artista che nasce e si diffonde inizialmente proprio dalle sue parti, proprio in Sicilia, poi conoscerà Stocca e Mad Buddy, artisti della zona, ecco. La prima strofa la farà proprio con loro in Giù con noi, pezzo di Palermo Centrale, se non ricordo male. E dopo due dischi solisti, collaborazioni con altri artisti e l'ingresso anche lui in Unlimited Struggle, yeah, senza scordare il suo gruppo, il Killa Soul, con Luis D, farà due dischi proprio con Big Joe, di cui ricordiamo il primo è Orgoglio, mm-hmm, e il secondo è Fantastica Illusione, dove già le sonorità si spostavano verso l'elettronico più che il sample, quindi abbandonando quella vena classica, mantenendo comunque una certa noise, mettiamola così. Vi facciamo sentire del disco la traccia Retro Game, Zisa 3 in punto. Godetevelo tutto perché merita veramente. Signore artista, ragazzi, Gianni Marsiglia. Sotto casa quando il vicinato già dorme, quando il silenzio ti assorbe. Sarà questa città o questo cannone che mi fonde, o la gente cambia in fretta oppure vedo i Transformers e il loro mondo d'altronde. Polo sud-nord, finto polo Ralph Lauren. Certa gente sogna ma non segna da bomber. Certa gente che si inventa segna dal corner. Segna dal corner, Zisa 3 in punto, segna dal corner. Nei pressi di via Cipressi da tutto il barbiere, mezzo pomeriggio prima di farmi sedere, ma a me stava bene, mi divertiva la clientela tutta del quartiere. Barzellette sempre sporche, nessuno si tiene. Apprezzamenti al calendario appeso alla parete. Guarda che telaio, ragazzino, ti piace, si vede. Se la squadra perdeva erano lamentele, battute fisse sugli sbirri e sulle parentele. Forse troppo forti per andare in tele, ma più comici del bagaglino, Leo Gullotta e Pippo Franco insieme. Sulle riviste c'era Alessia Merz, com'è stata messa al mondo, chissà com'è messa adesso. È passato un po' di tempo e non mi sono chiesto se tutto il barbiere si è spostato, ha solo chiuso da un pezzo, Zisa 3 in punto. Non so perché ripensa quando 2001 di Dr. Dre era tutto. E a 15 anni prima della PlayStation 3, tale Palermo man, palme come a Los Angeles. I videogame, la pirateria, i giochi negli scatoloni come Snake in Metal Gear Solid. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. Guarda nel radar, Snake. E attento a questi fake. Zisa 3 in punto. E ricordo delle prime sere in giro, mi chiama, mi fa Jay, dove sei giunto? Rischiamo di passare la notte in questura su sto mezzo che più che di trasporto è di fortuna. Domani sera non ci sono, sto con uno, sto con uno. Vi sto giuro con... raga, questa è un culo da paura, da paura. Mi fanno porta l'armatura e dacci dentro. Poi racconta, ok, come se la missione fosse uno. Solo uno. Ziza 3 in punto. Tu ci sai fare, sì, ma fino a che punto? Io non volevo la fidanzata, ma un'amica intima che mi diceva dopo cena casa libera. Luna piena, tu che vai a cena, io da stamattina che ti sogno di schiena davvero. Vedi, sei quasi come le modelle vere che splendevano sulla parete di Totò il barbiere nel quartiere. Sotto casa quando il vicinato già dorme, quando il silenzio ti assorbe. Sarà questa città o questo cannone che mi fonde. La gente cambia in fretta oppure vedo i Transformers e il loro mondo d'altronde. Polo sud nord, finto polo Ralph Lauren. Certa gente sogna ma non segna da bomber. Certa gente che si inventa segna dal corner. Chi segna dal corner? Ziza 3 in punto. Oh. Non può non esservi piaciuto, Gianni, non può. Ma quanto è bello sto Ma quanto è bello. Allora, una meravigliosa sorpresa del 2018, fra l'altro. Un signor disco a gusto personale veramente valido. Ma non ci fermiamo qua, non ci fermiamo qua e andiamo avanti di mese in mese. E quindi sbarchiamo nel giugno del 2018. Giugno del 2018, che è stato abbastanza florido. Abbastanza florido, se sì. Parliamo di uscite. Ok. Sì, no, ci sei, ci sei. Guarda, guarda, guarda quanto va. Vabbè. Adesso parliamo di Franco Negre. Franco Negre, che molti ricorderanno, forse molti non ricorderanno. che nel 99, insieme a Chiave DJ Impro, formò I Migliori Colori, gruppo che ai tempi con, se non li avete sentiti, sentiteli, perché con ben due cassettine valgono la pena. Due belle cassettine. Sì, sì, sì. Fecero ballare parecchi in Italia. Franco Negre, che nel 2007 ha cominciato in solo col suo disco Nomi, Cose e Città, dove c'erano featuring abbastanza pesanti come lo stesso Chiave, come Mistaman, come Turi, che lo ha supportato, lo supporta tutt'oggi, come DJ Sciocca. Hai detto nulla. Hai detto nulla. E dopo che nel 2014 ha fatto uscire Negretudine Mixtape, lo abbiamo nel 2018 con Humanology, album che ha tenuto a precisare vuole far ripartire la sua musica dalla sua umanità. Quindi bisogna essere umani prima che artisti. Che bel pensiero. Ti facciamo sentire Andare Via, pezzo prodotto da Nero, Hitmaker Calabro Lucano. E niente, preparatevi e speriamo che vi piaccia. Andiamo sul più allegro, dai. O vogliete andare via, qualcosa si muove, ma se fosse per mano mia sarei già su quel volo lontano tanti chilometri. Ho voglia di andare via, portarmi quel poco che mi serve per vivere e costruire nuove idee, grattacieli, mondi paralleli, sto pensando in grande. La sveglia rompe troppo dalla prima mattina, barcollo fino alla moca, ma il caffè del giorno prima, sti cazzi verso in tazzina, faccio una smorfia poi in doccia, con il sapone finito, lo spremo all'ultima goccia. Io non ho fatto la spesa perché il weekend è peraltro, tra donna amici e fumare, non ce lo metti dell'alcol, che poi io fumo tabacco, al dolbor giallo e merito, ti chiamerò quando ho finito il credito. Vuoi andare via, qualcosa si muove, ma se fosse per mano mia sarei già su quel volo lontano tanti chilometri. Ho voglia di andare via, portarmi quel poco che mi serve per vivere e costruire nuove idee, grattacieli, mondi paralleli, sto pensando in grande. Ormai vivo la giornata, progetti da parte, la valigia impolverata e due paia di scarpe. Per quanti propositi buoni, quanto poi tieni il titone, è tutto a cazzate, risate e partite a carte. La vita poi ti aggiorna il bios e il sistema operativo, questa sera aperitivo, poi domani si vedrà, ti si aggiungono arretrati e pagamenti e tu sembri soltanto un lavativo. Cambierai città, ma poi nemmeno lo fai, perché gli amici li tieni vicino, anche se vuoi voglia di andare, cambiare questo destino. Forse per questo mio ostino, far combaciare sto puzzle e pensare troppo, starsi sul cazzo. Vado distinto, già hai visto qua che casino c'è, confusione tra la figura del coglione, il senso di ribellione, la soluzione. O voglia di andare via, qualcosa si muove, ma se fosse per mano mia, sarei già su quel volo lontano tanti chilometri. Ho voglia di andare via, portarmi quel poco che mi serve per vivere e costruire nuove idee, grattacieli, mondi paralleli, sto pensando in grande. Ci siamo. Dopo questa allegria, sperate che rimarremo ancora per molto su qualcosa di funky, allegro, e invece no, e invece no, perché giugno è un mese molto ricco di uscite bellissime, ma a parte Negre, diciamo che l'altro artista che esce a giugno, tutto è fuorché gioia, allegria e tutto ciò che concerne. Parliamo però di un artista che ha fatto parlare molto di sé ultimamente, soprattutto perché si è presentato a Sanremo, quindi forse avete capito di chi stiamo parlando. Non ha partecipato al contest, si è soltanto presentato come ospite in una canzone, Argento Vivo, con Daniele Silvestri. E parliamo di Rancore, che ha fatto uscire nel 2018 Musica per Bambini. Mm-hmm. Ancora esce, inizia nel 2006, cioè esce nel 2006 per la prima volta. Inizierà poi a lavorare con DJ Mike nel 2010 e niente poi faranno tutta una serie di grandi lavori nel 2012, nel 2015 e arriva alla fine nel 2018 a far uscire questo disco pieno di significato, pieno di pensieri tristi ma profondi, e però noi abbiamo scelto di farvi sentire una traccia dove lui dimostra proprio il suo talento tecnico, praticamente. Abbiamo evitato troppi pensieri negativi, visto che abbiamo caricati già abbastanza in playlist. Esatto. Quindi sappiate adesso che comunque non è una persona positiva, Rancore, di nome e di fatto. E quindi adesso vi facciamo sentire Beep Beep. Beep Beep, che è un pezzo che è tutto dire dal titolo. Parte Beep Beep. Metronomi, mille chilometri l'ora, mentre vi comodi come su una poltrona, perché la musica che della mia anima è la padrona, ma sono felice solo perché a voi vi appassiona. Mi sveglio a fare attività ludica con la droga, poi mi giudica uno stupido ragazzo che gioca, quando in mezzo alle persone dico sempre una versione di come devi nascondere la coca nella moca. Mangio vocabolari, se mi trova parola, ora faccio tana libera a tutti alla nuova scuola, nel gioco del rap italiano, io sono fuori dal piano, Satana che mi richiama. Porca puttana, dammi una lama, ora mi tagli una mano, così a livello di seghe mentali ci limitiamo. Sono qui a prendere le cose che ci meritiamo, poi una volta prese ti ricorderai come mi chiamo. Devo correre, niente, ci provo con le donne che trovo, precipitevolissimevolmente, niente, anche se la lancio, la scuoto, la muovo, la vita mia precipita ugualmente. Niente, nessuno mi crede se dico che sono solo un tossico, non sono un delinquente, solo perché ho 10 chili nella macchina ed è l'unico motivo perché ho preso la patente. Bro, sono super bro del microfono, però ma quale flosso, non tic, la lingua ripita, dubito della mia fame di pubblico, meglio digiunare subito che sarà uno stupido picnic. Siamo una generazione senza trick, attaccate i videoclip in una guerra di click, ho sfattato il beat e la picca mi fa kick flip, superpoteri divento beep beep. Scrive con le penne che ha sulle ali, da quando le sue ali non volano più. Scrive con i piedi sul lungo asfalto, i suoi mali tanto non lo prendono più. C'è un nemico che lo vuole arrosto a costo di perdere il lume, di mettere trappole su una fune. Purtroppo ti rimane solo un cumulo di piume di bip bip. Corre super sonico, si chiama bip bip. Non lo vedi come sabato amico è bip bip. Ed è comico chi vuole catturare bip bip. Corre come un logo roico. Corre super sonico, si chiama bip bip. Non lo vedi come sabato amico è bip bip. Ed è comico chi vuole catturare bip bip. Corre come un cazzo di logo roico. Ci rimane attonito perché non vedi bip bip. Devi dare di stomaco, individuare bip bip. Porto vomito lirico nell'esofago solido, logorroico, ragazzo in tilt. Guarda quei mostri, fanno le hit. Una volta era rap, adesso è rip. Al sito Rancore rap.it che ti vendo split per un po' di sprint. I miei amici delle superiori sono laureati, hanno un lavoro di merda, però sono più pagati. Forse era meglio quando lavoravo nella malavita, anche se quella malavita ci ha ammalati, ammaliati. Amorevolmente umiliati, scalmanati. Ora ci siamo calmati, forse per i calmanti, forse per le amanti. Io non sto più avanti degli altri cantanti. Per questo devo correre, ma tu non capisci che mi fai le domande sulla mia vita di impicci. Solo che se me ne vado inizi a vedermi maleducato. Ma ora ti prego, l'ascolto, lo velocizzi. Non vedi che vado veloce come uno stronzo, cambia pezzo. Spendi questo pezzo, mi strozzo. Non vedi il corso, grande una zampogna si gonfia. Tu sputa parole da quella fogna che tonfa. Devo fare una cosa fondamentale, io non metto i freni, devo finire il pezzo. Non ti posso neanche dire quello che è successo. Non ho tempo, devo correre, parlo come scemi. Ora devo fare una cosa fondamentale, lo so che eravamo usciti, ma adesso io devo andare, non guardarmi male. Io ti spiegherò presto, solo non chiamarmi più se per un po' non esco ai problemi. Scrive con le penne che ha sulle ali, da quando le sue ali non volano più. Scrive con i piedi sul lungo asfalto, i suoi mali tanto non lo prendono più. C'è un nemico che lo vuole arrosto a costo di perdere il lume, di mettere trappole su una fune. Purtroppo ti rimane solo un cumulo di piume di bip bip. Con il supersonico si chiama bip bip. Non lo vedi come subatomico è bip bip. Ed è comico chi vuole catturare bip bip. Corre come un logo eroico. Corre supersonico si chiama bip bip. Non lo vedi come subatomico è bip bip. Ed è comico chi vuole catturare bip bip. Corre come un cazzo di logo eroico. Sono vere, sai che il fumo delle nere ciminiere farebbe i popoli della metropoli dei piccoli sorsi di veleno che li renderà stronzi, sperando che gli levi potere. Ogni uomo è politico se non ha barriere. Sei in pericolo davvero quando hai un parere. Chi per apparire bene ha un pene nel sedere. Tutto collegato come vene d'arteria, quindi devi collegarti con le cose più serie. Ma se ognuno si siede non appena c'è quiete, è arrivato anche il momento di levare le sedie. Non mi chiedere perché della mia logorega metrica, non scrivo solo quando il tempo lo concede. Non ho tempo neanche di badare all'estetica, per questo forse mamma non mi crede. No, che sono super pro del microfono però, ma quale flosso non ti la lingua di beat. Dubito della mia fame di pubblico, meglio digiunare subito che sarà dello stupido. Siamo una generazione senza trick, attacca dei videoclip in una guerra di click. Ho sfondato il beat e la picca mi fa kick clip. Superpoteri divento bip bip. Bip bip. Diventiamo tutti bip. Incredibile, beep. Veramente incredibile. Allora, adesso partiamo adesso con uno abbiamo stacco finito pubblicitario. La prima, esatto, la prima metà dell'anno e quindi tocca fare la pausa pubblicità, ecco. Allora, ricordiamo ai nostri audioascoltatori che possono ascoltare questo programma su sito wombat.noblogs.org e mandare una mail con delle richieste, degli insulti, dei regali, ma, qualsiasi insulti, cosa. Ecco. Anche gli insulti, anche mi beccherò un le sacco di insulti. Le critiche noi le accettiamo, ne facciamo tesoro. Mi beccherò tantissimi insulti su postawombat@insiberia.net. Mm-hmm. Che bello il sito, è così bella la mail. Per chi se lo stesse chiedendo, magari, se non so se si sentono in sottofondo, ma i beat che vanno di sottofondo quando parliamo sono di Eloquent. Un altro disco 2018, però non l'abbiamo annunciato effettivamente. Esatto, sì, perché avevamo fatto puntata italiana, però abbiamo detto, sì, ma è Pre-Beat Tape non è italiano, però comunque è del 2018, almeno quello. Ci manteniamo un attimino in linea con lo stile della puntata, magari chi lo sa. Prima o poi parleremo soltanto di Eloquent, oppure no, non lo so. Quindi adesso... dobbiamo ricordare anche altre due cose. La prima è che Radio Wombat può essere ascoltata su frequenze AM 1359, quindi fin dove arriva il segnale. E poi potete trovarci sulla pagina Facebook di Sessioni Notturne, anche lì per chiedere pezzi, consigli, insulti anche lì. Basta. Sì, limitiamoli, ecco. Soprattutto consigli. Non è che invito la gente a insultarci, però devono essere liberi di poterlo fare. Sinceramente, comunque, con la massima sincerità del caso. Esatto. Basta, riprendiamo a lavorare, a sparare un po' di pop e divertirci. Ok, adesso... passiamo direttamente, saltiamo l'estate a pie pari, perché d'estate è soltanto reggaeton. Oddio. Arriviamo direttamente a settembre. Arriviamo a settembre e parliamo di un gruppo, un gruppo molto conosciuto e che suona molto molto bene, che ha deciso di far uscire un disco con un cantautore rapper, potremmo dirla così, perché personaggio, esatto, sì. Magari più, si definisce più un soulman, magari, non so. Parliamo di Davide Shorty e i Feng Shui Project, che hanno fatto uscire Terapia di Gruppo nel 2018. E cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Davide Shorty, molti di voi probabilmente lo ricorderanno purtroppo per X Factor. Non so chi segue X Factor. Ma noi dimenticheremo questa parte della sua vita, perché questo disco è troppo bello e dimenticheremo il fatto che ha partecipato a un reality del genere. Però ricordiamo che comunque è stato il componente del gruppo dei Combo Masters e che da solista ha fatto uscire 4 dischi prima di varie collaborazioni che ha fatto, trasferitosi a Londra, live, sempre parlando poi di questo suo soul, questo suo stile più soul che K-pop. Quindi nulla, invece Feng Shui Project li ricordiamo proprio per questo, perché hanno portato, praticamente hanno iniziato con l'hip hop acustico in Italia, potremmo dire. Hanno portato sulla scena comunque, aiutato, cioè nel senso hanno collaborato con Willy, Peyote, che tutti conosciamo. Hanno collaborato con Chiave, hanno collaborato con Don Coco, con La Casa del Crudo. Dopo che Willy Peyote è diventato parte fissa del gruppo con altri 2 dischi, hanno deciso di far uscire questo disco. Questo disco, io non so più che dire. Quindi adesso facciamo sentire vi facciamo sentire pezzo. Naufrago nella realtà dei Feng Shui Project e Davide Shorty. Andati perduti, scrutando in angoli del mio cuore ancora me sconosciuti. Qui non si tratta di saluti, non è un addio, torno per un po' quando ci siamo conosciuti. Ed ero io come mi volevo, esattamente per come volevo, col mio scudo e i suoi buchi. Ed ero forte, non perdevo mai il controllo, perso negli occhi tuoi che fermavano i minuti. Eppure un giorno sembrava un'ora, ma ora ogni giorno lo conto ad ora ad ora. Ti osservo mentre chiudi te stesso e mentre butti la chiave del tuo cuore in preda alle tue paludi. Adesso ci si guarda dietro i vetri, io che avanzo, tu che arretri, con i vetri che si trasformano in muri. Non ci si ascolta più, io mi chiedo perché, tu ti chiedi perché, mi dai la buonanotte e chiudi. Non so lasciarti andare, non so più come si fa. Non posso più restare, sono un naufrago nella realtà. Collisione d'emozioni che rendono insopportabile l'amore e tutte le sue pressioni. Per diventare grandi mi sottopongo a grandi pressioni, mi impongo di dosare le mie azioni. Tu non lo sai, che mi chiedo quando tornerai, se lo farai, non lo farai. Scrivo fiumi di parole e soluzioni per darmi buoni consigli che alla fine non seguo mai. Non esco fuori dai miei guai, mi sembra ci provi gusto, ad ogni sbaglio insulto il mio buon senso, anche soltanto chiedendoti come stai. Meglio il silenzio, meglio darsi del tempo, tutto quello che tu non mi dai. Mi tocca volermi bene, sparisco nell'insieme, evitando di sapere cosa fai. Mi fischiano le orecchie in queste sere, ma resto fuori a bere e nuoto un altro po' finché non te ne vai. Non so lasciarti andare, non so più come si fa. Non posso più restare, sono un naufrago nella realtà. Non so lasciarti andare, non so più come si fa, non posso più restare, sono un naufrago nella realtà. ma quanto suona bene, ma quanto è rilassante, pezzo. Quanto suona rilassante in generale, dal funky al relax, veramente, se avete un pomeriggio libero e volete rilassarvi, disco dei Feng Shui e... Vedete, non mettiamo solo roba cattiva. Esatto. Però poi lo faremo. Ma oggi non mettiamo solo roba oggi cattiva. Oggi non solo roba cattiva. Abbiamo tutto ciò che il 2018 ci può regalare, ecco. Che ci ha regalato. Che ci ha regalato, esatto. Ma noi lo ricordiamo. Vabbè, allora adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Prima di tutto mi scuso per la mia maledetta dialettica, ma io... ho un po' di ansia. Ti perdoniamo, Mars. Ti perdoniamo. Voglio dire che c'ho un po' d'ansia. Allora. E dalla grande scena scendiamo nell'underground, quello che ci piace. Il sottosuolo. Il sottosuolo. Siamo sottoterra. Sotto, giù. adesso passiamo un pezzo di Mister Doppia F Fiume e Class K. Cosa dire? Cioè, Fiume. Calabrese, classe 75, attualmente dove abita? Tipo a Londra, quindi underground, molto nordico. Sì, dalla Calabria a Londra, nordico è una parola. Nel 2018 fa uscire il suo settimo album, quindi diciamo che è stato... Quindi ascoltatevi tutti gli altri. Cioè, era in attività quando io ero già molto molto piccolo, cioè, parliamo anche di questa cosa. Una cosa incredibile. Disco interamente prodotto dal produttore Class K. Un disco di realtà non molte tracce, ma un disco molto molto molto scuro. Il disco si chiama Underlife e adesso passeremo un pezzo dal titolo, dal criptico titolo, Windows Bukowski Aperitivo. Tutto da scoprire, una traccia tutta da scoprire. Sta a voi trarre le conclusioni, insomma. Niente più. Solitudini che sfioro, cuore che dopo non ghermisco. Fiori senza petali, capisci, non esisto. Ho lasciato il visto, il resto al fisco. Per certi versi un fiasco, per altri un disco. Con il funk che mi inserisco, vado liscio. Sono Ghezzi, fuori orario, fuori tempo, fuori sincro, fuori. Lascio andare tutto e spingo dalla parte opposta. Lo faccio apposta, o faccia tosta. Senza sosta metto demoni nei 16. Le rime il mio Getsemani, più linee, più proseliti. Proteggiti, provvedimi, gigante tra gli scemi. Mi giro e sono un esule tra gli emuli degli emuli. Il mondo qua va a rotoli, ci penso ma non chiamo. Sto bene senza scrupoli, selvaggio senza un piano. E se ci vuole un diversivo, anaffettivo, Bukowski aperitivo. Apro il cielo, chiudo un ciclo. Che mi mandi mi importassero una cifra tipo t'ho già sentito ad occhi aperti perché il sonno mi fa schifo. Lo schifo è la materia che ti insegno tipo programmi e progress, psicodrammi e poser. Poste su The Source, beh, avrei la cover. Range Rover, 4-4 Latin Lover. River come guru, hardcore composer. Con il nome sulla fibbia della cinghia. Un bacio per mia figlia, affari di famiglia. Ogni voglia che si spegne, riaccendi miglia. Pensieri neri in mandria, senza alcuna briglia. Sciolgo un altro pezzo, spezzo il suono quando faccio. La via di chi la piglia, muovo al volo e ti ci lascio. Un cazzo per nessuno, perché fisso non regalo. Bukowski aperitivo, apro il cielo, giù il sipario. Lasciami il microfono, discorso scorso. Uno come me, due come te, fuori dal tuo coro. Chiuso nel mio studio, come accessorio lascia giusto acceso un micro. Lasciami il microfono, discorso scorso. Intanto che ne vuoi, ne svolta, fuori dal tuo coro. Dammi accesso. verso il mito adesso. Niente pentimenti o ciondoli, ascoltami. Oh, che oscurità, ragazzi. Ah, ci avviciniamo a una parte molto massiccia, un momento massiccio del 2018. Entriamo nel... Adesso entriamo nella fase più seria della puntata. Seria. Siamo comunque a ottobre, ricordiamo era ottobre anche prima, ma rimaniamo nel mese ottobre e ecco che arriva uno dei momenti che tutti stavate aspettando e che tutti forse abbiamo... Forse non lo aspettavate perché non lo esatto. sapete, però... Allora. Adesso tocca la roba seria. Stiamo seri e vediamo risate. Vediamo se sì. Adesso parliamo del disco uscito quest'anno, il primo disco il primo disco postumo di Primo Brown. Parliamo del disco dei Corveleno, Lo spirito che suona. Niente, cioè, se non conoscete Corveleno, io adesso lascio il microfono e me ne vado. Vai, diciamole un paio di cose, dai, giusto per insomma riaffiorarvi alla memoria. Ricordiamoci di Corveleno e di Primo Brown soprattutto. Ricordiamoci che sono stati attivi dal 93. Ricordiamo i classici che sono usciti dai loro dischi. Ricordiamo 21 Tyson. Ricordiamo Ciao Frate, ricordiamo Spigne, per Fagiano, ricordiamo tutti i pezzi che sono usciti sotto il nome di Corveleno, quindi parliamo di rock and roll, parliamo di heavy metal, parliamo delle collaborazioni col Colle del Fomento, con praticamente tutta la scena romana, parliamo di Primo Brown e dischi di Mr. Phil, dei dischi di Primo e Squarta, quando Grandi Numeri lasciò il gruppo. Niente, parliamo di Primo Brown che ci ha lasciato la notte di Capodanno del 31 dicembre 2015 e quindi adesso vi faccio venire un po' di brividi con Lo spirito che suona tutta la vita. Fermo sopra il tuo banco e posso portare il mondo dalla tua stanza fino sul palco. E se tu puoi toccare il fondo per poi tornare abbastanza in alto, qua c'è tutta la vita intorno e allora io ciao sono un foglio bianco. Io sono un foglio bianco e mi scrivo quando mi passi accanto. E mi sa che non ho mai nessun rimpianto, tranne quelli di chi scrive, che alla fine uno vale l'altro. Se li vedi sti cantanti, sti poeti, farsi belli e sventolarmi come il primo dei rimedi, con le armi a protestare i divieti. Ma se è la tua guerra, con me spari più forte, baby. Io sono un foglio bianco e a volte mi sporcano col loro fango. A volte qualcuno mi sta disegnando e a volte così sono, così rimango. Sapere tutto non mi consola. Vedere il punto di ogni persona. Ma il primo della classe, l'ultimo banco, restano gli stessi su un foglio bianco, bianco. Ciao, sono un foglio bianco, fermo sopra il tuo banco. E posso portare il mondo dalla tua stanza fino sul palco. E se tu puoi toccare il fondo per poi tornare abbastanza in alto, qua c'è tutta la vita intorno e allora io ciao sono un foglio bianco. Ci vuole fatti tutti con lo stampo sulla lista dei cattivi, fin dei primi calci a un Santos. Ti scrivo con la vita appesa a un filo mentre in bilico cammino fra le vittime del branco. E impara brutto muso che alla fine resta un buco dove tutti quanti hanno preso un pezzo. Ma non sono migliore di chi mettono in prigione tutto vero, vostro onore lo confesso. Le parole sono pietre di valore contro un vetro di cazzate, gioco a rompere il silenzio. Le formule che cerchi tatuate tutte quante sulla superficie di ogni cicatrice messa a tempo. Tempo speso senza più rimedio perché me ne frego e se anche prego non ritorno indietro. Questo è peso che mi porto dietro, tutto l'alfabeto, tutti i numeri del giorno che io ho spinto record. Non puoi smettere di crescere, peccato. Però pensa a tutto quello che hai cambiato. Se il primo della classe, l'ultimo banco, restano impressi su un foglio bianco, bianco. Ciao, sono un foglio bianco, fermo sopra il tuo banco, e posso portare il mondo dalla tua stanza fino sul palco. E se tu puoi toccare il fondo per poi tornare abbastanza in alto, qua c'è tutta la vita intorno. E allora io ciao sono un foglio bianco. Ad esempio io sono un foglio bianco. Se si avvicina il giorno che lei sta arrivando e mi racconta un mondo che sta cambiando, che lei vorrebbe avercelo il telecomando, mi scrive perché ogni suo segreto sia intatto, oppure mi usa per cambiarsi lo smalto. Lo sai qual è il fatto? È soltanto un po' più facile guardarsi l'anima su un foglio bianco. Al tuo banco e posso portare il mondo dalla tua stanza fino su un palco. E se tu puoi toccare il fondo per poi tornare abbastanza in alto, qua c'è tutta la vita intorno. E allora io ciao sono un foglio bianco. Brividi. Ciao sono un foglio bianco. Che botta. Eh sì. Sì, sì, ma non finisce qua, non finisce qua perché andiamo avanti su grandi personaggi della scena hip hop italiana, grandissimi personaggi, forse questo proprio è un altro dei dischi che stavate aspettando da questa puntata 2018. Sì, assolutamente, abbiamo deciso di andare in ordine cronologico dei dischi, sì. Proprio per evitare di metterlo subito, esatto, e far sì che tutti lasciasse subito, il programma prima del tempo in realtà. Ve l'abbiamo fatto sudare un po', ma è arrivato. E poi magari siete andati su YouTube a sentirlo, avete detto, vabbè, chi sono questi? Quindi... Entriamo a novembre, tanti doni perché tornano sulla scena loro, ragazzi, tornano sulla scena dal 2007, non usciva un disco... Brullo di tamburi? Dei Colle del Fomento, bambini, ma di chi stiamo parlando veramente? Bambini. Finalmente nel 2018 esce Adversus, il disco più atteso degli ultimi anni, cioè veramente non riesco a pensare a un altro disco atteso, forse è atteso quanto la fine di Chaos, lascia ogni disco che fa. Quindi sui Colle del Fomento non diremo nulla, perché se non conoscete Colle del Fomento... Ancora più! Già, io mi ritiro assolutamente. Quindi vi facciamo sentire. Le produzioni di questo disco, abbiamo l'entrata in scena con i Colle nuovamente di DJ Crime, che comunque viene da zone limitrofe, ecco. Sì, nel senso. Ok. Diciamo così, un grande orgoglio. Va bene, adesso vi facciamo sentire Lettere d'Argento. Yes. Basta, cioè non diciamo più nulla su Colle del Fomento, giuro che non dico più basta, nulla. Basta, ascoltateli. Ok, perfetto, ci siamo. Ho scritto lettere che parlano per me, sulla lamiera come cicatrici, fango sopra il tuo parquet, quando qualche cosa c'è, sbranano, sputtanano ogni cosa e la riducono un cliché. Dentro me non possono entrare, ma non vuol dire che non provano a passare de qua. Non trovi un muro ma la porta aperta, ma c'è un coltello con un nome inciso che ti aspetta. Solo amore, solo al cuore, solo un business triste, come nel 90 il Colle sta spingendo, insiste. Riempio il foglio senza scriverle, e per uccidere decidere. Ho scritto lettere, alla leggera prendo te che non hai contenuti. Hai fatto solo citazioni dopo tanti studi. La delusione è come ruggine sopra il metallo, come una crepa fa una china nel cristallo. Appaia la campagna immagini che sto scrivendo, con queste lettere d'argento disobbedendo. E c'è uno sporco che non puoi lavare, perché una parte la racconti mentre l'altra fa male. Scendo nell'abisso ancora per guardare dentro, tutta sta polvere se l'è portata via il vento. Ma il meglio è poco ed è prezioso come ossigeno su Marte. Per questo ho scritto la mia parte. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Ho scritto lettere per mettere i puntini sulle i e rimettere sull'asse i miei diversi universi. Lettere scolpite con l'inchiostro di una B, che SOS, sì, per i miei fratelli persi nella nebbia. Lettere di rabbia, spilli nella bocca, un nascosto la mette nella sabbia. E chi sa leggere fra queste righe trova frecce avvelenate appuntite. Parole dinamite per buttare giù certezze, sicurezze, assediare ed espugnare ste fortezze. Mo mezze misure non ce n'ho, mi spiace, e ancora brucio sto microfono. E ne sono capace. Questo foglio è il mio bisonte bianco, il mostro che ho di fronte quando mi rifletto nel mio specchio infranto. Scrivo quindi sono vivo e tengo vivido sto suono dentro al quale sopravvivo. Perché qua tutto si ribalta, che ti piaccia o meno, basta niente, tutto salta. Io ancora scrivo lettere per togliere quella smorfia beffarda dalla faccia di quella grande bastarda. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio. Sveglio. Crudeltà anche loro, eh? E come avrete capito non è un caso se la prima puntata abbiamo deciso di farla sui dischi del 2018. Abbiamo tanta bella roba da far sentire in questo modo. Allora non ci resta che abbandonare i nostri colli del fomento e andare avanti, entrare in un freddo dicembre. Sì, freddissimo dicembre. Spostiamoci alla neve, alle nevicate. Ai monti, alle Alpi, ad Heidi. Parliamo di dicembre e parliamo di parliamo di un disco, ecco, parliamo di un disco di un artista che un disco di un artista che si è rivisto dopo quanti anni sono passati. Vabbè, no, in realtà ha fatto uscire il disco nel 2017, però per il 2017 si era visto nel 2009, quindi parliamo di Ape, che probabilmente molti ricorderanno per la sua strofa In giorni matti con Bassi Maestro e Zampa, perché quel pezzo lo conoscono tutti. O spero che qualcuno ricordi il disco 25, che è stato uno dei miei primi acquisti, oltretutto di dischi originali di pop italiano, tolti quelli che non ho comprato io ma ho ricevuto per forza di cose in casa. Disco che mi piacque tantissimo. Quindi nulla, cioè parliamo di Ape, parliamo del fatto che ha fatto uscire un EP che si chiama 1978, l'ha fatto uscire per i suoi 40 anni, quindi si è fatto un regalo di compleanno. E nulla, vi facciamo sentire un pezzo prodotto da Bassi Maestro, che praticamente... Di cui sicuramente prima o poi vi faremo sentire qualcosa, esatto. non quindi... dubitate. E quindi nulla, rivediamo il trio di Ape, Zampa e Bassi come per giorni matti, ma senza il rap di Bassi. Però ne vale la pena. Quindi godetevelo, a tra poco. Sì. la faccia dentro lo specchio che è sempre uguale, però ogni volta che gli parlo uso il condizionale, più che arma di difesa la ma doppio taglio, c'ho già gli occhi sbarrati ma non sono sveglio, in testa più progetti che piani d'azione, diviso tra entusiasmo ed ansia da prestazione, che tutto gira in fretta sembra vada al doppio, per bruciarsi le occasioni basta un colpo d'occhio, traguardi ed obiettivi in piedi da una vita, sensi di colpa sulle spalle qualche idea sprecata, che per tenere il passo spesso manca l'aria, faccio una doppia vita ma l'altra immaginaria, poche persone chiave che mi stanno intorno, con altri superato il punto di non ritorno, perché se il tempo cura e chiude le ferite, di norma ingigantisce le questioni mai chiarite, la faccia nello specchio è sempre la mia, ma il tempo se ne va, non so chi sia, sembra tutto diverso in quella fotografia, ma è lo stesso film, non serve un'altra bugia. La faccia nello specchio è sempre la mia, ma il tempo se ne va, non so chi sia, sembra tutto diverso in quella fotografia, ma è lo stesso film, non serve un'altra bugia. È da un po' che non so più ormai cos'è rimasto di quei sogni, di quelle atmosfere, delle albe tra palazzi e panche, noi zombie con le facce bianche, tra sigarette e tag sulle serrande, che di stronzate sai ne ho fatte tante, in viaggio senza meta mai avuto un atlante, destino scritto con il sangue sulla mano, come uno sciamano, lotto col panico, Tony Soprano, più cicatrici che rimorsi, non cerco le risposte ma le domande da pormi, è troppo giovane per smettere, ma forse è troppo vecchio per essere il lupo su cui scommettere, ora che il fiume indifferente segue il suo percorso, strappo storie dalle rughe, mischio birra inchiostro, sorrido, aspetto la mia prossima avventura, non ho più paura di avere paura, come il vecchio ha. La faccia nello specchio è sempre la mia, ma il tempo se ne va, non so chi sia, sembra tutto diverso in quella fotografia, ma è lo stesso film, non serve un'altra bugia. La faccia nello specchio è sempre la mia, ma il tempo se ne va, non so chi sia, sembra tutto diverso in quella fotografia, ma è lo stesso film, non serve un'altra bugia. Stufo di guardare altrove senza che mi manchi l'aria, fugo per andare dove ne ho sentiti a centinaia, il cane che mi sale morde non abbaia, ho un nemico nella testa, vorrei che scompaia, la mia coscienza sporca che mi rema contro, mi dice non sei adatto, non vuoi bene, non sei pronto, ritmo che taglia il fiato, leva il respiro, gioco al massacro, faccia faccia col tuo lato oscuro, ma hai pregato più del dovuto, fatto da solo ogni guerra senza mai chiedere aiuto, ma hai lottato senza uno scopo, ma ogni battaglia che ho vinto ha lasciato dentro un senso di vuoto, eterno insoddisfatto, illuso visionario, meno artista, distratto, più reazionario, tiro al bersaglio con i miei fantasmi, cuore che pulsa fa cazzotti con gli spasmi. La faccia nello specchio uomo è sempre la mia, ma più passano gli anni meno capisco chi sia, ti racconti diverso dentro una fotografia, e a te stesso che parli non serve un'altra bugia. La faccia nello specchio uomo è sempre la mia, ma più passano gli anni meno capisco chi sia, ti racconti diverso dentro una fotografia, e a te stesso che parli non serve un'altra bugia. Bel beatbox. Allora, adesso di cosa parliamo? Potremmo parlare del fatto che oggi del tempo. Il tempo è bellissimo oggi, ma, qui a New York City. Ma non saprei. Ah, c'è un bel sole, c'è un po' di venticello, ma ovvio, sai, sull'Empire State il vento tira. Allora, adesso spostiamo questo qui. Ah, comunque mi hanno fatto notare dalla regia che non ho detto il titolo del pezzo di prima. Si chiamava Il Mambo degli Orsi. Ora lo sapete. Esatto, mi era sfuggito un attimo. Cioè, così preso da dire il disco, da sentire il pezzo. Wow, mi sono dimenticato. Quindi adesso andiamo avanti. Andiamo avanti, parliamo di questo dicembre pieno di gente che voleva far uscire entro il 2018. Tre dischi a dicembre, tre dischi. Wow. Cioè, saltiamo l'estate per magari ne è uscito qualcuno in più, però non era di nostro gusto. Perché abbiamo, non è che sono usciti 10 dischi nel 2018. Sono usciti questi dischi che piacevano a noi, ecco, e noi abbiamo deciso di farveli sentire, dischi. Ecco. Quindi adesso è il turno di un disco che si chiama MoMA. Di Blobby e Johnny Gioielli. Ora, prima di parlare di prima di parlarvi di Blobby e di Johnny Gioielli, vi faccio sentire il pezzo che si chiama Damien Hirst. Damien Hirst. Ah, l'ho detto giusto. Marcel inglese. Vabbè, quella avete capito, no? Cioè, mi metto il pezzo e ci sentiamo dopo. Bella. Yeah. Con il rap sono come Dalicon, Amanda Lee, rammati da sto schifo ti riprendi manco. Dopo tre calmati dammi il nurse rap di lusso contro questi tre cantanti, io gli stacco il teschio, lo lucido, lo riempio di diamanti. Vino al vino, pane al pane, pugni calci, lame, testi e flow da Nobel Blow, Dario Fo con Franca Rame. Sono tutti contro tutti, sono Kramer contro Kramer. Sono un vecchio sporco, cane che c'ha fame più di Dahmer. Catrame, asfalto, l'oro, il platino, l'amianto. Voglio soldi per i miei gatti e una Bugatti blu, cobalto, Chiron con sedili in pelle di stirre perché ribalto. Se ascoltate merda non vi scuso più per il ritardo. Tramonto rosso in zona, sanguina il cielo verso strisce pedonali, piacere con sé Pacheco. Ti credi una rap star con la maglietta di Marcelo Barre, colpi di Beretta di Marco come Cancelo. Base d'asta, una Ford Mustang, le chiude sale il Nasdaq. Felpa di McQueen, non Steve, sto cazzo di piveste bastard. Rhymes quanto basta, pari in India la mia casta. Imposta meno quella voce, darti fuoco col gas, gas man. Zona sanguina il cielo. In zona sanguinace. Fratello, di la tua sorella fai venire la salmonella. Lo ammetti che senza filtro non puoi fare la modella. Lo ammetti che tu fai il VIP ma fai la fame come Pannella. Che c'è la bocca ben più larga di un wormhole in Interstellar. In alto mano ball capo, this is how we roll. Non fumate crystal meth, voi vi fumate crystal ball. Sono loser come Peck, più strafatto dei Pink Floyd. Another dick in the wall, tu me lo succhi glory hole. Abbiamo palle extra large, prendi palla Lonzo Ball. La coupe dentro il garage, non incluso extra small. Rollo, piaccia nel Vangelo in zona sanguina il cielo. Pensa al blow, vai al Duomo, fai un'offerta, accendi un cielo. In zona sanguina il cielo. In zona sanguina il cielo. Ok, nulla, ok, cioè, devo dire qualcosa, devo dire qualcosa. Nulla, vi ho detto che avrei parlato di Blobby e Johnny Gioielli, finito il pezzo, quindi vi dico un paio di notizie random. In realtà, sapete, cioè, sono molto poco in realtà, vi dico quel poco che so, voglio essere sincero. Blobby, che è attivo da anni nella scena, cioè, l'ultimo disco che ha fatto uscire prima di questo, in realtà, insieme ad altri singoli, è stato L'età dell'oro, disco che ha fatto molto clamore nel panorama. Aveva featuring molto importanti, fra quelli di Francesco Paura, che quest'anno ha deciso di ritirarsi dall'hip hop, oltretutto, piccole pillole. E nulla, questo disco MoMA ha il particolare di essere un disco molto vario, nel senso che Johnny Gioielli si è ispirato come Blobby per i testi alle sonorità probabilmente delle epoche, degli artisti che vengono citati. Questo pezzo era Damien Hirst, ci sta un pezzo intitolato a Pollock, un pezzo intitolato ad Andy Warhol e così via. Quindi ogni pezzo è come se fosse un'opera del MoMA, appunto. Almeno, cioè, penso sia stato studiato molto. Sì. Poi, quantomeno il risultato è questo. Il risultato è questo, cioè, abbiamo scelto uno dei pezzi più criptici perché era una ficata. E siamo giunti alla quasi alla fine di questo 2018, e anche di questa puntata, e di questa puntata quasi che non finisce, cioè nel senso continua il programma, inizia da oggi. Allora abbiamo l'ultimo disco, discone. Abbiamo un artista che io personalmente in realtà non conoscevo troppo bene, ma devo dire che quest'ultimo disco, Disordinata Armonia, mi è piaciuto molto. Un disco malinconico che tocca delle corde veramente interessanti anche dal punto di vista emotivo, prodotto da Macro Marco, cantato e rappato da Don Diego. Don Diego che inizia nel 2006 anche lui, fa uscire 4 dischi e l'ultimo appunto Disordinata Armonia nel 2018, e noi vi facciamo sentire la traccia Per Sempre, una traccia che lo sentirete anche questa molto malinconica. Preparate i fazzoletti. Esatto, preparate le lacrime. Preparate i fazzoletti per piangere, preparate anche le orecchie perché il beat è un sacco figo. Macro Marco ha scelto un break che... Io cercavo solamente posto per me, tornare un giorno non lontano dentro la tua città. Citofonarti a casa, dirti scendi sono da te. Fa freddo, mettiti il giubbotto, poi beviamoci il bar. Da piccolo mia madre mi voleva avvocato, oppure medico. Io già studiavo da letterato, quando il professore anziano ci spiegava le equazioni. Stavo all'ultimo banco, scrivevo le canzoni. Davide dormiva nell'ora di religione, Francesco dentro la mista metteva una piantagione, Roberto già dalle 8 mi aspettava sul portone. 4 Lucky Strike ed entravamo a lezione, poi sognavamo di volarcene via, come io e te. Oggi sono stanco e perdo la gente vicina a me, mio fratello, mia sorella, neanche il tempo di parlare, se non per i regali di mio padre a Natale. L'avresti tu detto mai che poi si arriva a un'età in cui si è tristi e contenti a metà, senza una metà, e temi di esternare la tua felicità. Per ogni rischio c'è un'opportunità, una chance. Io faccio tutto in velocità, non guardo mai nei replay. Tu sei lei nei miei frame, mentre sembri il sax di Coltrane. Train non posso e vorrei, ti ho aspettata come i dischi di Nas. Rimo da quando Maurizio non pensava nemmeno di fare lo scrittore. Deborah e Francesco non stavano ancora insieme, Marco era già il capo nel fare ste produzioni. Neffa fumava, poi cercava le costellazioni. D'estate cercavo un motivo per stare qui. Diego svegliati che è già lunedì, ma hai fatto il divo nel cattivo, dubbi grossi così. Non ho più un mito, sono finti come il sangue nei film. So come svegliarsi dopo ogni sconfitta, e che i più sinceri c'hanno la schiena dritta, e che non finirà questa infinita salita. Siamo soli anche dinanzi la più grande partita. E anche se dei treni non sono passati mai, sono qui che fumo, che conto le fitte al ventre. Abbracciami, fai finta di niente, tanto lo sai che tornano tutti per andarsene per sempre. Mi hanno insegnato che più di quello che dici conta quello che fai, conta come lo fai. Per questo più che mostrarti la suola delle mie Nike, ancora le nocche dure ti mando a scuola sul mic. Poi davvero tu di te stesso cos'è che sai? No davvero tu di te stesso cos'è che sai? Che mentre pensi a tutto quest'odio, tutto quest'hai, qui fotte a nessuno di chiederti come stai. Nasci che non sei nessuno eccetto per qualcuno, senza fiato provi la corsa numero uno. Diranno che è un tuo limite avere le pezze al culo, vogliono ottenere la tua fame a digiuno. Scrivo che oggi è già diventato ieri, lei senza giubbotto che balla tra i miei pensieri. Scrivo perché quando i guai qui si fanno seri, non voglio avere bisogno di te per poi dirti che non c'eri. Chiedo di questi anni che cosa mi resterà, forse qualche vecchia foto ed il tempo che se ne va. Sogno mia sorella che sboccia e diventa mamma. Voglio trasformare i fogli in soldi per mio papà. Non confondi la mia storia con quella della via Gluck. Io mando messaggi precisi ed in alley-oop. E quando i fantasmi si mostrano tu per tu, so che they come around but they never come close to. Per cui prendo la penna, scrivo un testo, metto tutto quanto dentro, dico ok fatevi sotto adesso. Quanto tempo resta per dare tempo a me stesso? Quanto ne do al capo e di sogni che m'ha promesso? Oggi giorni sono come i soldi e non bastano mai per dedicarti mano sul cuore a quello che fai. Che sei un uomo il risultato di tutto quello che ha perso. Alzati, usa ogni strumento come in jam session. E anche se dei treni non sono passati mai, sono qui che fumo, che conto le fitte al ventre. Abbracciami, fai finta di niente, tanto lo sai che tornano tutti per andarsene per sempre. Mi hanno insegnato che più di quello che dici conta quello che fai, conta come lo fai. Per questo più che mostrarti la suola delle mie Nike, ancora le nocche dure ti mando a scuola sul mic. Vuoi davvero tu di te stesso cos'è che sai? No davvero tu di te stesso cos'è che sai? Che mentre pensi a tutto quest'odio, tutto quest'hype, qui fotte a nessuno di chiederti come stai. Mi hanno insegnato che più di quello che dici conta quello che fai, conta come lo fai. Per questo più che mostrarti la suola delle mie Nike, ancora le nocche dure ti mando a scuola sul mic. Vuoi davvero tu di te stesso cos'è che sai? No davvero tu di te stesso cos'è che sai? Che mentre pensi a tutto quest'odio, tutto quest'hai, qui fotte a nessuno di chiederti come stai. Che bel sample. Che bel pezzo in generale. Beh, se vi siete asciugati le lacrime, conta quello che fai, conta come lo fai. Se vi siete asciugati le lacrime, possiamo continuare e avviarci alla chiusura, alla conclusione di questa nostra prima puntata, questa prima puntata di Sessioni Notturne in pieno pomeriggio. Una cosa che ancora mi fa ridere, molto divertente. Allora, nulla, quindi no, adesso siamo arrivati alla fine del 2018. Sì, siamo alla fine del 2018. Abbiamo chiuso l'anno, in realtà in bellezza. Ringraziamo per la sigla, la bellissima sigla, non so se l'avete sentita. Ringraziamo il Cero, di cui lasceremo questo nome molto aleatorio. Ringraziamo il Cero per la sigla, ringraziamo chi ha partecipato alla registrazione per le risate in sottofondo, tra cui qui presenti in realtà. Nulla, cioè adesso... E quindi ci avviamo a mandare l'ultimo pezzo di questa puntata. Ma prima di annunciare il pezzo, perché è il pezzo di chiusura, vi ricordiamo che il pezzo sarà in replica sabato alle 19, lunedì... scusate, non leggevo. Sabato alle 19, lunedì alle 15. Lo trovate quindi in replica, avete tutto il tempo per sentirci. Lo trovate in replica sempre sul sito di wombat.noblogs.org. E nulla. Quindi adesso chiudiamo con una menzione d'onore per il 2018, sì. Visto che non ha fatto uscire dischi, non ha fatto soltanto uscire. Ma non importa. È un po' che sta facendo uscire solo singoli in realtà. Si diverte così. Quindi facciamo una menzione d'onore al simpaticissimo e giocoso Aist. Perché? Perché ha fatto uscire un video dopo l'altro. Ricordiamo il fantastico Cuore Abusato che ha fatto uscire per San Valentino. Vi proponiamo un pezzo che vi farà sicuramente ballare, sorridere, quantomeno sorridere. Vi farà spegnere il computer felici e vi farà passeggiare in giro per la città col sorriso. Dopo tutta questa cattiveria e malinconia abbiamo deciso di chiudere con un po' un po' di risate, un po' di simpatia, Diego, quantomeno. Ancora mi fa lacrimare da prima. Quindi nulla, ci risentiamo giovedì prossimo, sì. Sempre su Radio Wombat, sempre alle 4:30, giusto? Sì. Sempre alle 4:30, vi facciamo sentire Corea del Nord di Aist. Buon ascolto. Arrivederci, ciao, alla ciao. Prossima puntata. Yeah. Sì. Perché non sono ricco, devi chiederlo a me sora. Avessi chiesto un euro per ogni consiglio a persona. Avessi avuto un po' meno coscienza a quest'ora, starei cambiando le leggi del rap ad persona. Avrei dovuto dare retta al diavolo al bivio e concentrarmi più su quantitativo. E invece uno standard qualitativo. Avessi preso un euro ogni volta che m'hanno detto socio canti da Dio. E non è che non conosco tutti i trucchi del mestiere. Io li conosco, tu li sfrutti anche fai troppo bene. Io mi trucco solo per andare in tele, giuro. Tu ti fai plastica al sedere e dici che ti fa il culo. Avessi preso un euro quando avrei potuto, come i bari. Avessi colto le occasioni degli uomini ladri. Fossi stato diverso, un po' più come i milionari. Ma se non fossi me stesso, adesso tu chi ti ascoltavi? Siete tutti campioni nel darvi una fuga, sì. Col vero hardcore, yeah. Sono io contro il resto del mondo e faccio paura. C'è Corea del Nord, yeah. E qua non c'è nessuno a cui mi venga voglia di passare il testimone. il testimone. E siamo tutti onesti a chiacchiere, nessuno che vuol fare il testimone. Il testimone, c'ho due coglioni che uno te lo darei pure se solo sapessi come. Sapessi come, non riusciresti ad acchiapparci un ladro manco se te ne facessi il nome. Facessi il nome, c'ho, io sto intesito come il tipo della metro che c'ha fretta, come il condannato all'ultimo tiro di sigaretta. 20 anni rotti di gavetta e non ho uno staff, corro solo in questa staffetta. E mi ricordo quando mi innamorai, pure bye bye, no woman, no cry. Non hai saputo scegliere tra paroliere e parolai, magari ti innamori ancora se, quando mai. Il rap con i suoi cambi generazionali, mangio bene se ne ingrasso, generazionali. Te l'ho detto che è finita, ma mi cazzo chiami. Mai scopato senza amore, storie serie occasionali. Non posso fare un pezzo solo per tutta la vita, io che in ogni pezzo metto tutta la vita. Per piacere, quindi per piacere io non canto per tacere. Sono un ostacolo nella battaglia, sono un ostaggio in mano a certa gentaglia. Sì, lo strano caso dell'essere umano che vai. Sì, sono lo stato canaglia. E siete tutti campioni nel darvi la fuga, col vero arcore, sono io contro il resto del mondo e faccio paura. Corea del Nord, yeah.